Una buonasera, Radio Città del Capo, in compagnia di Max Macchia. Ed Elisio Scarpa. Non abbiamo invertito questa sera. No, ma in realtà abbiamo invertito. Abbiamo invertito. Qua lasciamo sempre. Siamo un po' invertiti. Siamo un po' invertiti. Come, chi è che lo dice invertiti? Una roba storica. I fasci, mi sembra. Ha avuto una grande idea. Bravo, bravo. Grazie per l'invertito. Beh, il dritto rovescio, no? Il dritto rovescio, l'invertito. Bravissimo, geniale. Gli spinotti. Facciamo gli spinotti per arrivare in diretta, noi. Soprattutto tu, sei un grande amante degli spinotti. Quelli del Jay, Jack LaMotta. Iniziano con la Jay sempre. Con la Jay. Ma non LaMotta. Insomma. LaMotta. Sono più tipo salto, insomma. Jump. Jump, sì. Stiamo già iniziando a delirare nei secondi a posto. D'altronde qua le traslazioni ritmiche che questa sera attraverseranno 451 frammenti sonori saranno un po' zompettanti da una parte all'altra, quindi zompettiamo immediatamente anche noi. E appunto 451 questa sera, come dire, con questo... Beh, sono il primo rospino che sta uscendo. Ma non dire sempre rospino, sennò è brutto qua. Insomma, non è particolarmente radiofonico. No. Gatto, allora. No, neanche gatto. Non dire niente. Guarda, senti, queste robe qua, la raucelina oramai sta diventando fatto comune. Generalizzato. Non soltanto tuo, anche mio. Hai ragione. Sarà appunto per quegli spinotti magari che ti fumi, soprattutto tu. Vabbè. Che niente, questa situazione. Traslazioni ritmiche, perché? Perché questa sera andremo in giro musicalmente, vagheremo tra il funk e il dub, ma quella che è la traslazione di queste due generi, che poi in realtà non sono due generi, potremmo più definirle delle attitudini, connesse chiaramente alla musica nera, sono delle traslazioni poi legate alla black music, tutte e due tra l'altro nate negli anni 70, il dub giamaicano e il funk afroamericano, che così in maniera straordinaria e anche abbastanza sorprendente tra la fine dei 70, proprio con la nascita del punk, e di quello che sarà appunto il fenomeno del post-punk, assumeranno strane forme, partendo appunto dai grandi maestri che possono essere da una parte sicuramente George Clinton, Sly and the Family Stone, dall'altra Lee Perry, King Tubby, figure chiaramente che hanno inventato delle musicalità, delle attitudini, dei generi, sottogeneri veramente fondamentali, non soltanto per le musiche nere, anzi tutt'altro. Quello che stasera faremo è proprio una traslazione di questo, quasi una filiazione che però trasforma appunto quello che era il verbo, quello che in questo caso era la sperimentazione ritmica, in qualcosa che rimanda loro, ma trasforma e lo trasforma dall'interno, appunto lo trasla. Iniziamo immediatamente con una delle progettualità più importanti per quanto riguarda appunto la traslazione, quel passaggio appunto che ci fu tra musica industriale e hip hop addirittura. Hai detto benissimo, infatti Tech Head, formazione assolutamente importante negli anni 80, questa commissione appunto con l'aspetto hip hop ma anche la musica industriale, e in particolare perché citiamo i Tech Head, perché andremo a inserire subito nella scaletta di questa serata in apertura un disco di uno dei componenti dei Tech Head, oltre a essere stato anche uno dei componenti fondatori di altre formazioni importanti come Bernie Ermi, Time Zone, e parliamo con Bill Oswell, grande personaggio oltretutto molto amato da noi 451 frammenti sonori, e parliamo di Kate LeBlanc, che appunto ha portato avanti questi progetti importanti, questi gruppi degli anni 80, oltretutto parliamo della metà degli anni 80, in particolare nel disco che andremo adesso ad ascoltare, Major Malfunction, uscito per la Cleopatra nel 1986, in un anno insomma abbastanza cupo. No, è la ristampa. È la ristampa. On Sound, era proprio legato a Adrian Sherwood, legato dopo a doppio filo poi con Mark Stewart, con i Mafia e quindi con tutto quel dub industrialoide, e in più con Cate LeBlanc venendo dagli Sugar Hill Gang, appunto la prima formazione, una delle primissime insomma dell'hip hop newyorkese. Comunque appunto LeBlanc, che appunto componente di queste formazioni, fa uscire questo disco omonimo come Cate LeBlanc. È interessante perché sviluppa un discorso legato al disastro del Challenger Space Shuttle, che è uno dei tanti incidenti degli anni 80, e utilizza proprio nei lavori musicali che porta avanti nel disco delle parti registrate appunto sonore, televisive e radiofoniche rispetto a questo disastro, per utilizzare una sorta di effetti concretisti di suoni e di voci che attraversano l'intero album, che adesso andremo a ascoltare solo in parte con un paio di brani che daranno l'idea appunto della traslazione che utilizza LeBlanc, lavorando moltissimo su vari piani, appunto oltre che l'hip hop, la musica industriale, ovviamente tutto il funk e la musica nera che attraversa comunque il periodo storico di riferimento. Ce l'andiamo a sentire dunque, Major Malfunction, Cate LeBlanc. Situation. Obviously a major malfunction. grown used to the idea of space. We've grown used to the idea of space. Pulling us into the future. Pulling us into the future. Pulling us into the future. The future. E siamo rientrati in diretta, 1986, un anno sicuramente anche molto cupo per tanta musica sperimentale, anche se c'erano molti che provavano ad andare avanti su questo territorio, e questo è uno, è proprio Kate LeBlanc, però è stata dura, insomma, tra l'85 e l'88 sono stati tre anni veramente allucinanti dal punto di vista degli spazi e delle ricerche musicali. C'era una normalizzazione abbastanza pesante in termini non soltanto mainstream, ma si stava chiudendo un'epoca e probabilmente chiaramente aprendo un'altra, però è stato un periodo difficile. E Kate LeBlanc con qualche altro, non pochi, ma sicuramente meno degli sperimentatori che iniziavano a portare avanti un discorso nei primi anni 80, ha continuato, e appunto in un anno così difficile ha fatto uscire uno splendido lavoro, Major Malfunction, per la On U Sound. Ci siamo finalmente arrivati in maniera chiara l'etichetta di riferimento, e ricordiamo ancora un autore che poi ha portato avanti ancora dei dischi sicuramente interessanti anche negli anni successivi. Certo, per collabora poi ancora con Max Stewart, quindi insomma è ancora in pista anche negli anni zero. Sono usciti oltretutto altri album proprio a suo nome. È sicuramente un autore che siamo ben contenti di averlo messo in apertura per un discorso anche storico di questa puntata Traslazioni ritmiche. E da Kendel Blanc andiamo a pescare un altro personaggio sicuramente importante, almeno per quanto ci riguarda, poi per altri un po' meno. Beh, va bene, sì, per noi sicuramente importante, per quello che è stato anche l'importanza dei Public Image Limited, PIL, l'italiana maniera, ma insomma non ci passiamo di certo a lanciare in anglofonie varie noi, quindi chiamiamoli PIL per così anche in maniera confidenziale, appunto molto italica. E Ja Wobble, un personaggio incredibile, se appunto con Kate LeBlanc nell'86 si continuava ancora un'onda lunga, quella appunto del post-punk più sperimentale, quello che traslava le ritmiche nere del funk, le univa con l'industrial, con cut up barroxiani, con rumorismi insomma di varia specie. Tra l'altro Adrian Sherwood collaborò con gente del calibro di Eistruzen Neubauten, ma non solo, creò veramente tutto un giro legato a un sound molto molto interessante per quello che sarà anche la musica, ad esempio, degli anni 90, legata a certe forme di recupero del dub e insomma dell'elettronica analogica più spinta. E con Ja Wobble si va appunto a pescare, se torniamo indietro di 6 anni al 1980, tra l'80-81 a dire la verità uscì questo Full Circle, disco che tra l'altro vedeva Jackie Leibzeit e Ojetsukei dei Can, quindi insomma, come dire, la traslazione funk che avveniva già dentro la musica cosmica negli anni 70 proprio da parte di quel genialissimo gruppo che erano i Can, portato adesso dentro la wave con un funk assolutamente deragliato, un dub quasi apocalittico, con un vociare che ci riporta appunto quasi dentro climi industrial, ma tutto appunto veramente in una chiave piuttosto originale, come d'altronde poi originale anche questa collaborazione di Ja Wobble insieme a Jackie Leibzeit e a Alger Zucchei. Tra l'altro l'anno dopo uscirono anche con i due Can più The Age in libera uscita dagli U2 e Kevorkian, che era il storico DJ newyorkese che aveva mixato tanta mutandisco e tanta disco no disco, o insomma dirty dancing, come abbiamo voluto chiamare la scorsa trasmissione. Ci andiamo a sentire Ja Wobble. Through this valley of discontent, now I'm at the water's edge. Always searching soul on a suspicion. Always searching soul on a suspicion. This is a continuation of my dreams. One long nightmare, so it seems. Through this winter of discontent. Through this winter of discontent, oh, I go towards the forest edge. Oh, watching you swing very hard for the sound of money jingling hard. Through this valley of discontent, now I'm at the water's edge, searching for soul. Searching soul, searching soul, on a suspicion. don't fight what could be bliss. It's the continuation of my dream. One long nightmare so continuation of my dream. Thank you. insieme a Jackie Leibzeit e invece che Tsukei a un personaggio che forse sembrerebbe molto distante, in realtà le traslazioni di questa sera ci portano anche a ritrovare Flip Jack, che si occupa di più che altro suoni come dire, forse legati alla memoria, un flusso sonoro con i suoi giradischi, i suoi turntable eccezionali utilizzati in maniera assolutamente poetica, ci riporta insomma sempre a quel passato che vogliamo legato alla puntina, ma anche a quella avanguardia poi che riesce a fare Jack attraverso appunto l'uso della puntina, del disco, del turntable. Jack Leibzeit, che è mai domo anche insomma dopo tanti anni di sperimentazioni con Kahn, ma anche per fatti suoi, e Joe Oblo, che neanche lui ne vuol sapere niente. In questo caso infatti un trio veramente strano, se pensiamo che uno viene dalla musica cosmica, l'altro dal post-punk, quello più scuro, e forse lì vabbè qualche già connubio c'è. Jack, che forse ha preso comunque certe metodologie vagamente dubbistiche, perché comunque se pensiamo che insomma molte delle musiche venivano trattate anche proprio immediatamente sul vinile già negli anni 70, cercando appunto una sorta di proto glitch, di glitch analogico se vogliamo, errori che facevano suonare la plastica, il vinile, in maniera differente, come d'altronde appunto l'utilizzo del mixer, quindi di tutte le stratificazioni che fanno insomma di Jack un grande, delle stratificazioni di Leibzeit che diventano anche lì delle strutture poliritmiche tra funk e musica quasi archetipa africana, però mischiate appunto con le strane avanguardie cosmiche, e già Wob appunto con questo sempre basso pesante, sempre profondo, sempre a cercare quell'altrove che spesso è anche riuscito a trovarlo, se ricordiamo il basso micidiale che c'è in Metal Box di Public Image Limited, uno dei momenti più cupi ma splendidi in un altro senso del post-punk e quindi delle musiche tutte. E rimanendo ancora nell'anno 2005, perché questo sì, è disco uscito, fatto Live Alone di Wob Leibzeit e Jack, rimaniamo sempre in questo anno, ma andiamo a pescare un personaggio che oltretutto ha avuto un certo riscontro anche rispetto alla critica. Prima parlavamo del fatto che comunque il disco che adesso andremo a sentire, proprio uscito nel 2005, Out of Breath, ha avuto una certa considerazione insomma per l'uscita di questo lavoro. E parliamo di chi? Di un personaggio abbastanza eclettico, in arte si dovrebbe leggere, infatti la cosa anche strana che abbiamo trovato è la pronuncia del nome, di solito non succede quasi mai, ma forse essendo un nome particolare, avendo avuto magari vari sbagli radiofonici, non solo, in realtà è Mo, anche se si dovrebbe leggere, uno gli verrebbe naturale leggere Mu perché è M-U, ma la pronuncia esatta è Mo, e si tratta appunto del nome d'arte di Motsumi Kanamori, che è un artista giapponese anche, e questo così diamo anche una sorta di collegamento per la seconda parte, compagna di Morris Fulton, che ritroveremo poi successivamente, dunque vi diamo anche questa piccola anticipazione. Musica musicista che ha iniziato, diciamo, la sua carriera da musicista, da produttore dagli anni zero, e ha fatto uscire appunto diversi album, non moltissimi, da un po' oltretutto che è ferma con le produzioni musicali, ma questo è un disco sicuramente che merita, Out of Breath, come avevo detto all'inizio, musicista appunto che si attraversa la scena elettro con anche forti richiami deliranti col suo modo di cantare punk, post-punk, ma chiaramente le strutture musicali si rifanno molto a tutto l'universo no wave, seppur riportate anche con la dovuta bravura negli anni zero, con la giusta oltretutto commistione di rumorismo, di noise molto potente e deliri anche proprio concettuali nella elaborazione dei brani. E ci andiamo ad ascoltare appunto una traccia da questo album molto interessante, ed è appunto la seconda traccia, che poi in realtà è la prima traccia vera e propria, essendo il primo brano un intro, dunque è il brano, diciamo, d'apertura di questo disco. Fortissime anche gli elementi funk e le ritmiche chiaramente traslate dal personaggio Mo. Mm-hmm. E siamo rientrati in diretta, abbiamo ascoltato questo splendido lavoro di Mo, ricordiamo ancora questo personaggio giapponese, appunto, che ha fatto uscire alcuni album negli anni zero, e subito dopo, l'avevamo già accennato, e colleghiamo il compagno Maurice Fulton, un personaggio abbastanza conosciuto nella scena dance e non solo, perché essendo un DJ, musicista estremamente poliedrico e aperto, ha portato avanti un discorso ormai già dagli anni 90, che sulla scena legata ovviamente all'house, ma al funk e anche un certo post disco, e qua ci possiamo collegare veramente a Dirty Dancing, trasmissione della scorsa settimana, ma ci sono anche caratteristiche anche nell'attitudine, nell'approccio musicale, della composizione e non solo, anche dal punto di vista proprio live dei suoi DJ set, anche un atteggiamento post-punk piuttosto crudo, sì, abbastanza aggressivo e assolutamente antiformale, come d'altronde la stessa Mo, si muovono molto vicine, probabilmente è stato anche il collante, chissà, adesso che ci lanciamo su la Novella musica. 3000 della musica. Lo facciamo anche noi, ma tra l'altro è uscito un libro sui gossip. Ah, sui gossip tra i musicisti. Tra rock. Noi lo potremmo fare sull'elettronica, facciamo i collegamenti. Le tresche della sperimentazione, della dance sperimentale. E chissà, potremmo fare anche successo, non si sa mai nella vita. Ci vedo grandi speranze. Sì, va bene, lasciamo perdere sti deliri e andiamo a presentare appunto Maurice Fulton con uno splendido lavoro che abbiamo selezionato, proprio l'album del 2003, uscito appunto di Maurice Fulton, e Stress, Why Put We Through It, in inglese terribile, ma ci andiamo a sentire questo brano. Io l'ho capito. Bene, bravo. Allora, andiamo a sentire questo brano. Poi Radio Giornale, poi seconda parte di 451 frammenti sonori. Maurice Fulton. Qualcuno mi ha ricordato qualcuno, questo modo, sì? Di fare. Ah, è vero, però è meglio non citare, va? Anche perché Maurice Fulton, lo dico la Max, io, Maurice Fulton.